Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it. Effetto mondo. And you know what? If Biden got in, that would be true for the country. The whole country would go to hell. And we're not going to let it go to hell. Buongiorno Giulia Crivelli. Buongiorno. Allora, per chi capisce l'inglese, questa dichiarazione è molto forte. Sì, to go to hell, per carità, è anche un modo così, un'espressione gergale per dire oh, ma vai un po' a quel paese, vai un po' all'inferno. Però, detto dal presidente americano e che sta evidentemente diventando sempre più nervoso per questi dati del vantaggio di Biden per il voto di novembre, insomma, ha proprio detto, sì, se Biden got in, quindi neanche se fosse eletto, se entrasse, l'intero paese andrebbe all'inferno. E questo naturalmente viene riportato da molti giornali, questo appunto, queste dichiarazioni di Trump che ha dato alcuni segnali così non chiarissimi, però, cioè non diretti, però che sta un po' cambiando rotta su alcune cose. Ha ripreso a fare i briefing sul coronavirus che erano stati diluiti, diciamo, nelle conferenze stampa tenute dalla sua addetta stampa. C'è però un problema che segnalano tutti i quotidiani, che questo nervosismo si è tradotto anche in una dichiarazione che manderà gli agenti federali nelle città per ristabilire l'ordine là dove fosse necessario. Questa è una misura che viene considerata da molti costituzionalisti al limite della legalità, anche perché non manderà degli agenti normali, ma manderà Navy SEALs e Delta Force, che hanno naturalmente un training per un tipo di combattimento molto aggressivo, e saranno anche autorizzati, nelle intenzioni di Trump, a essere in borghese. Quindi c'è molto, ripeto, molto nervosismo. Però siccome so che avete parlato di mascherine, ti segnalo dal Wall Street Journal questa notizia curiosa. Sapete che ha riaperto Disneyland in Florida, che è il più grande dei parchi di Disneyland, e siccome comunque c'è la paura che la gente non rispetti il distanziamento, per esempio facendo la fila, è stato introdotto il divieto di mangiare e bere mentre si cammina. Perché? Perché così, perché naturalmente la gente per mangiare e bere si toglieva la mascherina. Certo. Quindi anziché imporre la mascherina quando si mangia, che è impossibile, si vieta di mangiare e bere, così si obbligano le persone a tenere la mascherina. Quindi questo problema, insomma, c'è. La mascherina è, specie in estate, insomma, dà fastidio a tanti, non soltanto a chi affolla la piazzetta di Capri. Allora, tra i titoli principali dei giornali c'è ancora qualcosa che riguarda l'America, ma anche la questione del vaccino, no? Il vaccino cinese in questo caso. Sì, qual è la notizia? Il New York Times, sappiamo che c'è in corso, questo ne abbiamo dato conto anche noi, c'è titoli entusiastici nel Regno Unito per i primi risultati sul vaccino di Oxford che sarà prodotto in parte a Pomezia, ma c'è anche il problema delle sperimentazioni che sta facendo la Cina, perché la Cina lo sta testando in massa, con naturalmente trasparenza vicino allo zero verso la comunità scientifica internazionale, al contrario di quello che invece accade nel Regno Unito e negli Stati Uniti, lo sta sperimentando sui soldati e su un non meglio precisato target di operai. E questo naturalmente... Chissà poi perché i soldati e gli operai hanno scelto. E questo naturalmente, certo, favorisce i grandi numeri, favorisce la possibilità di raccogliere statistiche, però la domanda principale è, saranno tutte queste persone sulle quali viene testato il vaccino al corrente dei rischi che corrono, come deve accadere per legge in Occidente, e soprattutto ci sarà buona fede totale da chi lì o anche dovessero essere informati dei rischi, saranno veramente informati di tutti i rischi che corrono? Quindi insomma il New York Times si pone questo problema che ancora una volta riporta al grande tema del rispetto dei diritti umani in Cina. Poi insomma, dal punto di vista del vaccino sono tutte e due, quello britannico e quello cinese, nella fase 3, solo che la fase 3 britannica prevede la sperimentazione su 30.000 persone controllate in maniera scientifica, eccetera, eccetera, invece quello cinese, diciamo, coinvolge l'esercito e fanno questo tipo di sperimentazione. Vabbè. Comunque, insomma, nel Regno Unito, naturalmente, questo successo di Oxford è su tutti i giornali. C'è la notizia che se si passasse a produrne una versione somministrabile al Regno Unito, spetterebbero il numero maggiore di dosi iniziali, cioè 90 milioni. Poi, visto che avete parlato tanto di scuola, c'è una bella foto di Boris Johnson, perché settimana scorsa era andata Kate, la moglie di, naturalmente, del principe, a fare visita alle scuole, e ieri ha fatto questo tour per le scuole Boris Johnson, ed è molto divertente perché ci sono le foto che lo ritraggono vicino ai bambini. Anche lui ha disegnato una coccinella che sembra più uno scarafaggio, e anche alla bambina, insomma, ha fatto vedere i suoi disegni. Però, per dire che naturalmente il tema della scuola e della riapertura molto attesa, che tra l'altro dovrebbe avvenire molto prima rispetto a noi, fine di agosto circa, è naturalmente molto importante anche è un tema molto che è sull'agenda politica di Johnson, che appunto va a farsi fotografare nelle scuole anche nel Regno Unito. Sui giornali britannici ci sono anche commenti all'accordo europeo? No, devo dire, è come se, vabbè, teniamo conto che... questa è una curiosità, no? Perché adesso la Gran Bretagna è fuori da questa partita di giro, naturalmente, quindi se la dovranno sbrigare da sola. Si sono resi conto di questi? C'era un po' chi nei giorni scorsi faceva un po' quel giochino del Schadenfreude, no? D'essere contento delle disgrazie altrui, vedendo che c'era lo stallo. Vediamo un po' domani che cosa si commenterà. Sono riuscita a farmi tradurre dalla mia amica olandese i titoli di due quotidiani invece olandesi, ecco. Ed è interessante perché The Volkskrant titola Rutte, che stamattina ho sentito una giornalista di origini olandesi che lo pronunciava bene, adesso devo esercitarmi anch'io, titola: non ha fatto certo una bella figura a Bruxelles, ma era necessario, nel senso, gli olandesi si rendono conto che sembravano i cattivoni della situazione, però andava fatto perché questi italiani vanno un po' tenuti a bada, esatto, e invece Trow titola che Rutte avrebbe detto: lo so benissimo di aver fatto, di non essere stato il beniamino di Bruxelles, ma non mi importa dell'opinione che hanno di me i miei colleghi, anche perché, lo ricordiamo, alla fine vedremo i dettagli, però comunque anche lui ha portato a casa un risultato in tema di rebates, cioè i rimborsi che vengono dati ai paesi, chiamiamoli frugali, anche se è sempre una parola che mi sembra un po' strana, comunque sappiamo di che cosa stiamo parlando, perciò insomma devo dire che sembra che ognuno, come ogni trattativa tra 27 opinioni diverse e posizioni diverse, ognuno abbia, insomma, canti un po' vittoria. Quale altra pagina vuoi sfogliare in questi ultimi 3 minuti, ma 2 minuti se e mezzo? Vuoi, i giornali francesi ieri abbiamo visto come i giornali britannici parlassero di questa repressione degli uiguri in Cina, oggi lo mette in prima pagina Liberation, mentre Le Figaro, naturalmente teniamo conto che nessuno dei quotidiani che è andato in stampa poteva avere il risultato finale, quindi c'è una foto di Angela Merkel vicino a Macron con questo tandem Macron-Merkel che secondo Le Figaro ha messo sotto scacco i frugaux, cioè i paesi frugali, e poi però il titolo principale è sulla possibile seconda ondata dell'epidemia, perché la Spagna, la Francia, lo sappiamo, ha chiuso le frontiere con la Spagna e è molto preoccupata per quello che riguarda la situazione in Spagna, però anche in Francia sono sempre un po' sono giustamente attenti, come lo siamo tutti. C'è ancora un approfondimento anche su Le Monde, sì, sulla questione dei paesi che più stanno soffrendo dal punto di vista del turismo, che sono soprattutto Italia e Spagna, un pochino meno la Francia per questa naturalmente riduzione di tutte le presenze. Ultimissima segnalazione, se vuoi, da un'altra parte del mondo, dal Sudafrica, dove anche i sindacati minacciano di non presentarsi, di imporre agli insegnanti di non andare a scuola perché hanno paura. E poi questa pagina lutto di Extra, un quotidiano brasiliano, 80.251 vidas perdidas. Che notizie ci sono su Bolsonaro invece? C'è qualcosa? Ma Bolsonaro lui non ha cambiato passo, no? No, non, io mi piacerebbe tanto avere degli amici fidati in Brasile e capire com'è la situazione della stampa lì, della stampa libera. Nessuno osa criticarlo proprio apertamente, però ci sono comunque voci che trovano spazio sulla stampa. Quello che Bolsonaro sembra ignorare è di fatto il genocidio tra le tribù, soprattutto dell'Amazzonia, dove già hanno pochissimo accesso alla sanità. Normalmente, tenete conto, non hanno quasi nessuno acqua corrente, quindi quasi tutti vivono insieme, quindi distanziamento sociale, così come per gli indiani americani, così come in India, non si può praticare. Anche l'igiene è per forza di cose ridotta, e quindi c'è chi parla apertamente di un genocidio più o meno voluto da Bolsonaro. Grazie Giulia, è tutto per la puntata di Effetto Giorno di oggi, con Filippo Reggi in regia, Jacopo De Franchi in assistenza, in redazione. Ci risentiamo domani. Da Alessio Maurizio, auguro di una buona giornata, e ci risentiamo tra poco per l'aggiornamento. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite su Aruba.it